Per me è stato di grande interesse fare visita al Salone del Mobile a Fiera Milano, Fiera Milano che rappresenta uno sviluppo di grande importanza della mia città, se così ancora posso esprimermi, e che è un contenitore ma anche propulsore di iniziative che sono fondamentali per la continua ascesa dell'economia italiana, anche in momenti che possono sembrare di arresto in questa ascesa. Ciò che vediamo in questi giorni nel Salone del Mobile è di grande importanza sostanziale e anche di grande importanza simbolica. Di grande importanza sostanziale perché parliamo di diciamo, questo è il punto di visibilità di un bacino di imprenditorialità molto diffusa in Italia, con 73.500 imprese che impiegano 389.000 occupati, parliamo del 9% del totale del manifatturiero e rappresentano il 3% del prodotto italiano. Quindi in anni buoni di crescita come quelli che abbiamo avuto tante volte in passato e che l'Italia ritroverà presto, sono convinto, 3%, 3%, una crescita del 3% del prodotto italiano, ecco, il settore di cui parliamo rappresenta l'intera crescita dell'economia italiana in un anno, quindi è qualcosa di veramente molto notevole. E, questo è un settore che è una tradizionale forza dell'Italia, che ha saputo rinnovarsi, che ha saputo riposizionarsi su prodotti di fascia alta. Basta pensare che negli ultimi 6 anni i valori medi unitari dei beni esportati sono aumentati del 15% per i mobili, dell'11% per i prodotti in legno, grazie alla capacità di innovare di queste imprese, che sono imprese artigianali, industriali, che danno prova di creatività veramente molto notevole. Questo settore è un settore al quale l'economia italiana deve dire grazie, perché la crescita delle esportazioni dell'ultimo anno, e parliamo di un anno che non è stato facile per l'economia italiana e per quella internazionale, è superiore al 5% e ha portato il valore complessivo delle vendite all'estero a 12,2 miliardi di euro, con un saldo commerciale positivo di oltre 7 milioni, scusate, 7 miliardi di euro. E quindi parliamo di una grande forza dell'economia italiana e che è riuscita che riesce con questo salone anche a diventare punto di confronto, in qualche modo di certificazione della validità degli altri, diventa benchmark, diventa luogo dove bisogna essere per essere in questo campo. Perché è anche un valore simbolico? Perché io visitando questo salone ho trovato oggi contemporaneamente espressioni di grandi problemi, di grandi difficoltà, ma anche un visibile entusiasmo e un senso di capacità di farcela. Queste sono esattamente le connotazioni dell'economia, ma direi della società italiana in questo momento. Avremmo potuto evitare, con qualche artificio, di sentirci in difficoltà. Avremmo potuto ancora una volta rinviare al futuro certi problemi gravi che l'economia e la finanza italiana hanno. Invece un insieme di circostanze europee, nazionali, politiche, hanno fatto sì che l'Italia abbia deciso in questo momento di intensificare una verifica su se stessa, tagliando della propria macchina. E abbiamo tutti deciso, per primo il Parlamento, di concentrare in un periodo, che ovviamente non sarà semplice per questo stesso fatto, rimessa in discussione delle cose che nel sistema italiano non funzionano, che devono essere migliorate. Si è deciso di farlo in un periodo concentrato. È chiaro che questo determina stress in tutti, determina anche sofferenze sociali particolarmente acute in certe fasce della popolazione, anche se il governo ha cercato, in particolare con la lotta incisiva all'evasione fiscale e con altri provvedimenti, di colpire di più chi finora non era stato colpito e di alleviare di più chi finora era stato troppo colpito. Ma è una fase difficile per tutti, ci vogliono segni di crescita accanto a tanti segni di disciplina, di bilancio fiscale, eccetera. Segni di crescita non se ne possono dare tanti nell'immediato in senso di soldi dello Stato, perché questo rischierebbe di vanificare i sacrifici fatti in questi mesi e di rimettere l'Italia al centro di tempeste finanziarie, con grave danno per noi prima che per l'Europa. Però ci sono lo stesso segni di speranza e di ottimismo. Io ho voluto visitare oggi un grandissimo segno di speranza e di ottimismo che vede l'Italia affacciata sul mondo e il mondo che viene a mostrarsi in Italia, in questo settore che è contemporaneamente legato alla cultura, alla storia e al gusto dell'Italia, ma anche legato alla capacità dell'Italia di innovarsi tecnologicamente, di penetrare i mercati più sofisticati del mondo. Certo, le aziende che operano in questo settore meritano di essere sostenute. In passato molte aziende in Italia venivano sostenute, non mi riferisco a questo specifico settore, con soldi pubblici. Questo non è più possibile, ma vanno sostenute le aziende italiane creando loro un ambito operativo adatto, efficiente, che le aiuti a competere. Questo è un duro lavoro, è un lungo lavoro che richiede determinazione e pazienza, ma è un lavoro in corso, è un lavoro che mi sembra tutti vogliono continuare. Quindi grazie a voi che avete accettato la mia sorpresa di venirvi a trovare. E mi avete dato sia dei messaggi di preoccupazione sui quali lavoreremo, sia dei visibili segni di speranza che voglio trasmettere da qui a tutti gli italiani.